Ed eccoci di nuovo in diretta su Radio sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e cominciamo anche oggi questa trasmissione con un'intervista. Questa volta abbiamo qui con noi una compagna colombiana direttamente dal Sud America e appunto la intervisteremo un po' sulla situazione che vive questo paese di cui tante volte già abbiamo parlato, purtroppo negli ultimi anni quasi sempre con notizie dolorose, ma invece partiamo quest'oggi con una notizia, diciamo un resoconto piacevole da quello che è una situazione di lotta che si sta sviluppando in Colombia. La lotta delle lavoratrici e dei lavoratori dell'industria floreale. La Colombia è una grande esportatrice di fiori verso gli Stati Uniti, ma anche verso l'Europa, e oggi, giorno di San Valentino, è anche il giorno internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori di fiori. Quindi appena dopo le presentazioni di questa compagna passiamo a parlare di questo argomento. Sì, buenas tardes. Mi nombre es Consuelo Navarro. Estoy en estos momentos aquí en Italia. Sin embargo, desde hace algún tiempo he venido haciendo unos trabajos con sobre este tema de las empresas floricultoras en Colombia. Buonasera, sono Consuelo Navarro, in questo momento sono in Italia, ma da vari anni, svolgo un lavoro sulla questione con le lavoratrici delle floriculture in Colombia. Bien. Pues hoy 14 de febrero se celebra el Día de San Valentino, pero también el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores de las Flores. Oggi 14 febbraio si festeggia il giorno di San Valentino, ma anche la giornata internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori della floricoltura. Digamos que en esta ocasión no solamente se hace la relación, sino se quiere hablar, resaltar la situación precisamente de estas personas trabajadoras en las la empresa de flores. Non si tratta solo di una coincidenza, diciamo, di date, ma l'idea è quella di risaltare, di far conoscere la situazione lavorativa delle persone, appunto, che lavorano nell'industria dei fiori. Básicamente se puede decir que en el caso de Colombia, que es el segundo país exportador de flores del mundo después de Holanda. Colombia è il secondo paese esportatore di fiori nel mondo dopo l'Olanda. De la totalidad de la exportación, el 75% va para Estados Unidos y el 25% para la Unión Europea. Di tutti i fiori che vengono esportati dalla Colombia, il 75% vanno negli Stati Uniti e il 25% nell'Unione Europea. Sí, a partir de estos datos, pues es importante mencionar la sobreexplotación de mano de obra que viven los trabajadores o las personas que trabajan en este sector. A partir de estos datos es importante resaltar el supersfruttamento de la mano de obra de las personas que trabajan en estos sectores. Específicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Son personas a quienes se les prohíbe el derecho de asociación. Precisamente a cosa ci riferiamo? Sono persone alle quali si proibisce il diritto di associazione. Los empresarios, los floricultores, evaden el pago de la salud y las pensiones. Sin embargo, si descuentan este dinero de los salarios de las personas trabajadoras. I proprietari, gli imprenditori non pagano le assicurazioni sanitarie e la pensione a questi lavoratori, ma ciò nonostante glieli scontano dallo stipendio. Además, hay una imposición, digámoslo así, de condiciones de trabajo inhumanas, en tanto que en promedio ellos deben seleccionar, estas personas deben seleccionar 300 flores por hora, lo que genera, digamos, serias enfermedades a estas personas. Le condizioni di lavoro sono molto dure e queste persone devono selezionare, quindi pulire e prendere e fare 300 fiori in un'ora e questo affetta molto, questo colpisce molto le condizioni di salute. Además, no pagan, los empresarios no pagan trabajo extra a estas personas. E oltretutto non vengono pagati gli straordinari. Y digamos una de las razones más reiterativas por las que estas trabajadoras hacen huelgas o paros de vez en cuando es porque los empresarios retienen indebitamente los salarios. Una delle questioni più frequenti per le quali avvengono proteste e scioperi da parte di questi, vengono messi in atto proteste e scioperi da parte di queste lavoratrici è il fatto che questi impresari non gli pagano, cioè gli fermano, gli bloccano gli stipendi. Bien. Bueno, una aclaración que principalmente son mujeres quienes trabajan en este sector, las dos terceras partes son mujeres y que además son cabezas de hogar. È una precisazione necessaria che due terzi delle persone che lavorano in questo settore economico sono donne e la maggior parte delle quali sono anche, sono soprattutto donne capofamiglia, sono donne sole con figli. Bien, ahora volviendo a esto, a este punto de que no son pagados los salarios al, digamos, al momento que deberían ser pagados, que es quincenalmente o mensualmente, lo que hacen estas estos empresarios es coger este dinero y utilizarlo para inversiones, normalmente en el extranjero. Indebidamente retienen entonces los salarios de los trabajadores o evaden los pagos de salud y pensiones, y este dinero lo utilizan para hacer inversiones a negocios de ellos en el extranjero. Più precisamente, proprio è importante sottolineare che il fatto che non paghino le spese sociali, cioè ovvero la salute e l'educazione, la salute e la pensione, e a volte non paghino lo stipendio, è legato al fatto che usano questi soldi che dovrebbero pagare, con cui dovrebbero pagare le operaie e la salute, per fare investimenti all'estero. Ora, tenendo in cuenta que este sector de la floricultura genera 100.000 empleos directos y 80.000 directos, se puede, digamos, verificar también una suma alta de aprovechamiento, digamos, de los salarios y de los beneficios laborales que tienen los trabajadores a favor de los empresarios. Appunto, se pensiamo che il settore, la floricoltura, impiega direttamente circa 100.000 persone e 80.000 indirettamente, allora capiamo quanto questo reinvestimento dei loro salari e delle quote per pagare il servizio di pensione, il servizio di salute, e possa essere un affare grosso, no? Bien. A todo esto se le suma que estos empresarios de las flores, grandes empresarios de las flores, están recibiendo o están siendo beneficiarios de préstamos, préstamos que luego no son pagados. ¿Eso cómo sucede? El mismo gobierno colombiano, el Estado colombiano, proporciona préstamos o crea planes de salvamento para los empresarios, quienes conjuntamente idean la fórmula para que a través de declararse en quiebra, bancarrota, simplemente no paguen estos préstamos y el dinero que utilizan, que deberían utilizar del plan de salvamento, es también utilizado para, es sacado del país, es también utilizado para sus inversiones propias en el exterior. E il governo, di fronte a questa situazione, quello che fa è fa prestiti e piani di salvataggio di queste imprese che spesso appunto vanno in fallimento proprio per la mancanza di questi pagamenti, offrendo grandissime somme di denaro. Queste somme di denaro, invece di essere investite in Colombia e precisamente per pagare i salari mancanti agli operai e le operai, vengono investiti all'estero. Bueno, esta es una situación que viven las trabajadoras de las flores de manera permanente en Colombia. Sin embargo, existe una certificación de buenas prácticas sociales y ambientales. Questa è una situazione che vivono praticamente tutte le lavoratrici e i lavoratori dell'industria della floricoltura in Colombia. Cioè, nonostante esiste questi produttori di fiori si avvalgono di una certificazione di buona condotta e buon trattamento dei lavoratori. Sì. Prácticas sociales y ambientales, ¿no? O sea, laborales, sociales y ambientales. Sí, un buon comportamento dal punto di vista sociale e dal punto di vista di trattamento dei lavoratori e dal punto di vista ambientale. Questi loro hanno queste certificazioni. Però è una certificazione che realmente non è certa, perché de fondo pues non hay ningún respeto ni a lo social, ni a lo laboral, ni a lo ambientale. Chiaramente o non si rispetta come si dice nella certificazione. Queste certificazioni ovviamente sono delle certificazioni false, perché cioè sono le certificazioni sono vere, ma quello che certificano non è vero, in quanto queste imprese non rispettano né la società, né i lavoratori e le lavoratrici, e né tantomeno l'ambiente. Queste sono certificazioni ISO, no? Sono certificazioni ISO? La certificazione si chiama Flor Verde. La certificazione si chiama Fiori Verdi, che è questa certificazione appunto di buon trattamento ambientale, sociale e lavorativo. Diciamo, nell'ultimo anno, sì, ultimo anno, más o menos, ultimi 2 anni, el peso colombiano, la moneda de Colombia, ha sufrido una devaluación respecto al dólar. Y esto ha provocado una supuesta crisis en el sector de la floricultura. E nell'ultimo anno il peso si è svalutato molto rispetto al dollaro, il peso colombiano si è svalutato, che la moneta colombiana si è svalutata molto rispetto al dollaro, e questo dicono che ha creato una crisi del settore della floricoltura. Con ello es que se han creado estos planes de salvamento, se han hecho estos préstamos de parte del Estado colombiano a estos empresarios, porque supuestamente se preocupan, o no, supuestamente la real preocupación tanto del Estado, o mejor, del Estado, es por la disminución de la ganancia de estos grandes capitales, sin tener en cuenta que se están violando verdaderamente los derechos fundamentales de miles de personas. Rispetto a questa situazione appunto di svalutazione, di presunta perdita del potere d'acquisto, di presunta inflazione del pesos rispetto al dollaro, quindi di presunta perdita di guadagni da parte di queste industrie di floricoltura, che il governo colombiano come risposta ha fatto questo grande piano di aiuti economici, che sono aiuti economici che realmente difendono solo e esclusivamente queste grandi rendite economiche, questi grandi profitti commerciali ed economici, ma in nessun modo difendono o si preoccupano delle condizioni di vita e di lavoro di mille di persone che lavorano in questo settore economico. Sì, diciamo una cifra para tener en cuenta es que en el 2009 hubo un aumento de las exportaciones del sector floricultor con una ganancia de 1.049 millones de dólares, que es una cifra bastante grande. En el 2009 c'è stato un aumento dei benefici del guadagno dell'industria dei fiori, con un guadagno di 1.049 milioni di dollari, che insomma è una cifra ragguardevole. Bene, ora facciamo un rapido stacco musicale, poi torniamo qui in trasmissione sulle 87.9 di Radio Onda Rossa per continuare a parlare di Colombia. Eccoci in diretta, terminiamo il discorso che stavamo facendo sull'industria della floricoltura in Colombia e poi facciamo una panoramica globale della situazione che vive questo paese del Sud America. Bien, como estrategia los empresarios de flores en Colombia tienen por un lado, que no hacen contratos directos o lo menos posible. Una delle strategie degli impresari dell'industria dei fiori in Colombia è quella di non fare i contratti diretti o farne il meno possibile. Con questa terzerizzazione, de una u otra manera, se libran de responsabilidades con sus trabajadores. Con questa forma di esternalizzazione si liberano di responsabilità nei confronti dei lavoratori. Y ellos, las grandes empresas se conforman en pequeñas, crean pequeñas empresas, contratan cuando los trabajadores crean un sindicato o empiezan a preparar algún tipo de paro o huelga, las empresas se declaran en quiebra, cierran, despiden a los trabajadores, se acaba la empresa, pero abren otra con otro nombre, los mismos propietarios. Quando quello che fanno per fronteggiare possibili forme organizzative dei lavoratori e delle lavoratrici è che quando questi si organizzano e stanno preparando scioperi o blocchi della produzione, semplicemente si dichiarano in fallimento, chiudono la fabbrica e gli stessi proprietari ne riaprono un'altra con un altro nome. En el 2006 se dio un caso con la multinacional Dole. Nel 2006 c'è stato un caso dove è coinvolta la multinazionale Dole, che credo che tutti conosciate, la multinazionale che vedete delle banane e di altra frutta esotica. Sì, conosciuta principalmente per le flores, perdón, per le frutas, però in Colombia estuvo presente con un'impresa di flores, la Dole Fresh Flowers. In Colombia è conosciuta appunto principalmente per la frutta, ma in Colombia è stata presente con un'industria di flori che si chiama Dole Fresh Flowers. En 2006 despidió a todos sus trabajadores en Colombia argumentando la terminación del trabajo. Nel 2006 ha licenziato tutti i suoi lavoratori e lavoratrici argomentando la terminazione, che si era finito il lavoro in Colombia. Sin embargo, este trabajo no terminó y dos años después vende la empresa al grupo Nanetti, actualmente de los más grandes en Colombia. Questo lavoro, cioè, nonostante non terminò, e quindi nel due anni dopo vende l'impresa al gruppo Nanetti, che attualmente è il gruppo di fioricoltura più grande che c'è in Colombia, con approssimativamente 337.000 trabajadores en la zona de Bogotá, che ha approssimativamente 37.000 lavoratori nella zona di Bogotà. Digamos, el año pasado, desde el mes de septiembre, los trabajadores se han visto obligados de nuevo a organizarse, autoorganizarse en sindicatos para exigir unas condiciones de trabajo dignas, para exigir la defensa de sus derechos. A partire da settembre dell'anno passato, del 2000, dell'anno scorso, i lavoratori e le lavoratrici si sono nuovamente organizzate in un sindacato per far fronte alla situazione lavorativa a cui erano sottoposte e sottoposti. In questo momento, precisamente, si sta dando la pelea. Estos trabajadores están continúan organizándose, dando la pelea en la búsqueda de obtener estas condiciones dignas de trabajo y, por tanto, de vida, porque no son solamente ellos, sino sus familias quienes dependen de estos trabajos. In questo preciso momento, quindi, si stanno dando queste lotte affinché i lavoratori stanno lottando per avere condizioni dignitose di lavoro, che sono condizioni dignitose anche per le loro stesse famiglie, appunto, da cui dipendono. Bene, ora andiamo avanti e appunto chiediamo alla compagna se ci può fare una panoramica della situazione colombiana, tenendo conto che l'anno scorso, nel 2010, sono state le elezioni presidenziali e il presidente uscente Álvaro Uribe, che appunto è stato presidente della Colombia negli ultimi 8 anni, ha lasciato il posto a Juan Manuel Santos, il suo ex ministro della difesa. Bien, sí, en el año 2010 se dan las elecciones en Colombia, elecciones presidenciales. Termina el segundo periodo, que significan 8 años de Álvaro Uribe Vélez. Nel 2010 ci sono state le nuove elezioni presidenziali, quindi è terminato il secondo periodo, 8 anni di presidenza di Álvaro Uribe Vélez. En donde claramente se ha buscado una total apertura al capital extranjero en Colombia. Chiaramente si è cercata, è stata l'obiettivo costante, una totale apertura di Colombia al capitale straniero. Durante el gobierno de Uribe Vélez se ha firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, aunque aún no es vigente porque no es aprobado por el Congreso de Estados Unidos, debido a las conocidas violaciones de derechos humanos en Colombia, y que el gobierno de Uribe Vélez de una u otra manera se ha visto implicado por acción o por omisión. Durante appunto il periodo di governo del Álvaro Uribe Vélez, in questa stessa direzione si è visto il reiterato tentativo di approvazione del Trattato di Libero Commercio tra Colombia e Stati Uniti, che però non è stato ancora firmato, è firmato ma non è attivo, precisamente a causa delle reiterate violazioni di diritti umani, delle quali il governo si è reso o attivamente attivo protagonista o complice. Bien. Ahora en mayo pasado también se ha firmado, pues Uribe Vélez firmó otro tratado de libre comercio con la Unión Europea, y esto también ha provocado ciertos, cambios entre las alianzas del capital o de los grandes empresarios colombianos con el gobierno de Uribe Vélez, y que luego heredará Juan Manuel Santos. Nel maggio dello scorso anno Uribe ha firmato anche un trattato di libero commercio con l'Unione Europea Sì, questo trattato di libero commercio con l'Unione Europea aún no es vigente tampoco perché deve essere approvato por el Parlamento Europeo. Questo trattato con l'Unione Europea ancora non è vigente perché deve essere ratificato, approvato dal Parlamento Europeo. Bien. ¿Cuáles son los cambios que han sucedido? grosso modo entre Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. La política de Uribe Vélez de fondo se mantiene con Juan Manuel Santos, aunque ha tenido una presentación diferente a nivel diplomático con los países vecinos y también con respecto a organizaciones sociales en Colombia. Quali sono i cambi tra la politica di Álvaro Uribe Vélez e quella di Juan Manuel Santos? Fondamentalmente la politica è la stessa, cioè la politica di Álvaro Uribe Vélez si mantiene vigente con Juan Manuel Santos, che invece che comunque si presenta differentemente sia dal punto di vista diplomatico sia dal punto di vista del rispetto, presunto rispetto delle organizzazioni sociali, cioè, sì, cioè la politica è la stessa, solo che di facciata Juan Manuel Santos si presenta in maniera un po' più decente, è un po' più presentabile. Sì, corretto. Esto esto para decir que en el caso, por ejemplo, de las relaciones con Venezuela, Colombia-Venezuela, estaban bastante, digamos, afectadas cuando estaba Uribe Vélez. Apenas llega Juan Manuel Santos, hay un cambio, digamos, aparente de esta relación, porque de fondo hay una presión de los grupos económicos en Colombia para que esta relación mejore, pues, porque es importante la relación económica con Venezuela. Per esempio, rispetto alla relazione tra Colombia e Venezuela, con Uribe erano terribili, con Juan Manuel Santos sono apparentemente migliorate in maniera sostanziale, e questo dovuto alle pressioni degli impresari economici colombiani che hanno interessi in Venezuela. Actualmente se vienen haciendo varias reformas de las leyes que había dejado Uribe Vélez sin pasar. Es el caso de la ley de tierras y de la ley de víctimas. Attualmente si stanno riformando alcune leggi che il governo di Álvaro Uribe aveva proposto ma che non erano passate, come la legge sulla terra, sulla proprietà terriera, e la legge sulle vittime. Sin embargo, estas leyes, aunque apparentemente tienen una aceptación importante por las organizaciones sociales en Colombia, de fondo pues también tienen sus críticas, pues son leyes que han tenido algunas modificaciones a propósito de la conveniencia de grandes capitales nacionales o extranjeros. Sono leggi che hanno avuto, cioè che interessano molto le organizzazioni e i movimenti sociali e che stanno comunque subendo molte modificazioni a favore di interessi multinazionali e stranieri. Bien. Bueno, esto como lo más general, decimos. La fachada de Juan Manuel Santos es diferente, pero hay una política, la política de Uribe Vélez, que traía Uribe Vélez, se mantiene en Juan Manuel Santos. O sea, el fondo sigue igual, la fachada cambia. La fachada que presenta Juan Manuel Santos es diferente, seguramente, ma altrettanto seguramente la política es absolutamente la stessa. Bien, ahora. haciendo una unión entre el tema de las flores y la actual situación de Colombia, pues vale la pena mencionar que este Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea tiene, si bien tiene unos intereses importantes para la Colombia, principalmente es para la Unión Europea, es la posición fuerte quien termina sacando la ventaja de estos tratados. Precisamente adesso, facendo un po' l'unione tra quello che si è conversato prima e quello che si sta conversando adesso, passiamo a considerare il trattato di libero commercio tra che deve essere approvato tra Europa e Colombia, dove se ci sono degli interessi colombiani sicuramente in gioco in questo trattato di libero commercio, parliamo di interessi comunque delle imprese colombiane, dall'altra parte l'interesse e il beneficio sarà sicuramente soprattutto per l'Unione Europea. Per le imprese dell'Unione Europea. Correcto. ¿A qué nos referimos? En el caso de las flores, pues si bien son las empresas colombianas las que entran a favorecerse al ser la Unión Europea el primer mercado importador de flores en el mundo. E per esempio, nel caso dei fiori, sebbene sono... sono le imprese colombiane di produzione dei fiori che si beneficerebbero, essendo l'Unione Europea uno dei principali mercati importatori di flori, il primo mercato per importazione di fiori. La Unión Europea definitivamente, mejor, las empresas de la Unión Europea definitivamente serían las que sacarían la mayor ventaja en términos, caso de la deslocalización de las empresas, sabiendo que Colombia tiene una mano de obra bastante barata, los costos de producción saldrían más bajos de lo que constituirían aquí en Europa. Appunto, sebbene riprendo la traduzione della frase precedente, sebbene siano le imprese, nel caso dei fiori siano imprese colombiane a beneficiarsi, nel caso da questo trattato di libero commercio sarebbero comunque in fin dei conti imprese europee a beneficiarsi di più, perché possono delocalizzare la loro produzione in Colombia, paese nel quale la manodopera è molto più a basso costo e senza tanti diritti sindacali, e appunto possono beneficiarsi di spostare la produzione in Colombia e importare dalla Colombia le cose che devono produrre. En donde, en ambos casos, quienes están en total desventaja, quienes sufren, digamos, de realmente la parte negativa de estos tratados es el trabajador o aquellas personas, digamos, en condiciones económicas bastante pobres, porque es su mano de obra que es usufructuada en favor de los grandes capitales. Ad ogni modo sono comunque i lavoratori e i poveri quelli che vengono che ci rimettono di più, perché la loro manodopera in questo caso verrà sfruttata molto di più a favore dei grandi capitali. Perché, retomando lo che già aveva detto in altro momento, lo che importa è favorecer la ganancia dei grandi capitali sin importar la no garantia de los derechos humanos, digamos, de los trabajadores o de los derechos ambientales mínimos a respetar. Perché, riprendendo ciò che ho detto anche in precedenza, la priorità in tutti questi casi è quella del beneficio dei grandi capitali e delle imprese a discapito appunto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Lo haremos.